Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon sabato, una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il buonasera vi arriva anche da Laura Fagin, Nadia Zammitti che sono in redazione, Valera Bernardi alla parte tecnica. Vi ricordo che anche potete interagire anche in questa puntata, come sempre, via mail nessunluogo@radio24.it, via sms al 349-238-6666. Poi c'è il profilo Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, infine Twitter dove potete cinguettare a Nessun Luogo 24. E allora stasera andiamo in Venezuela, perché domani 12 milioni di elettori andranno alle urne per eleggere il nuovo presidente. E a medida che passano le ore se oirà con maggiore estruendo. Y ese grito dice, ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Chávez desde Caracas y Capriles desde el estado Lara han liderado multitudinarias movilizaciones. La nueva técnica del candidato, atacar libreto en mano la gestión de su contrincante Hugo Chávez. Las obras que no hizo este gobierno, ese es el compromiso. Nosotros vamos a llegar aquí y no perder tiempo. Nosotros vamos a llegar aquí. È stata una campagna elettorale incandescente, potrebbe essere una svolta storica per il paese, per il Venezuela, il cui governo è guidato dal 98 da Hugo Chavez, il comandante socialista. E il comandante se la deve vedere contro il flaco, il magro, Enrique Capriles. Chi vince guiderà il paese per i prossimi 6 anni. L'uomo, che per 14 anni ha gestito il potere in Venezuela, minato da problemi di salute, dice di aver sconfitto il cancro, ma aleggiano sospetti sul suo reale stato di salute. E di contro c'è lo sfidante, quarantenne, avvocato, ex sindaco, ex governatore, capace però di raggruppare attorno a sé, ed è forse la prima volta nella recente storia politica venezuelana, un'opposizione che fino a questo momento era molto, molto frammentata. E allora, per la prima volta, si dice, ebbene, l'opposizione potrebbe farcela. Ascoltate ancora Chavez. Votemos por nuestros hijos, votemos por el futuro, votemos por la vida. Votemos por la alegría, votemos por Venezuela, votemos por la juventud, es decir, votemos por Chávez, porque Chávez somos todos. Ya, ya, ya, un nuevo día y la city se desborda. Un helicóptero en el aire anuncia enorme escola, hombres y mujeres que de sus casas bajan la mano obrera que Paco me trabaja. E avete sentito Chavez, insomma, la sua retorica che incendia le masse, è un abile oratore, uno capace, gli ultimi comizi li ha fatti sotto la pioggia scrosciante, insomma, a dispetto dei suoi 58 anni e dei problemi di salute, si è mostrato insomma in forze e capace di tenere una campagna elettorale che, lo ripeto, è stata dura, ha portato i due candidati negli ultimi 3 mesi a viaggiare lungo tutto il paese. La musica che ci accompagna è quella di Gente de Barrio, che è un collettivo che sostiene Chavez anche attraverso la musica. Chavez, l'alfiere dell'antiamericanismo, l'amico dei paesi cosiddetti non allineati, no? Dell'Iran, della Bielorussia, contro l'uomo nuovo, che potrebbe rimettere in discussione proprio i fondamenti sui quali la politica venezuelana si è retta. Dicevo, domani alle urne si recheranno 19 milioni, scusatemi, non 12 come ho detto all'inizio della trasmissione, 19 milioni di venezuelani. E in questa campagna elettorale, che è stata rovente, vi sono stati anche momenti di tensione, perché una decina di giorni fa, nello stato di Barinas, 3 attivisti anti-Chavez sono stati assassinati. Chavez ha archiviato l'episodio come un incidente, mentre Capriles ha chiesto con forza che venga fatta luce e giustizia. Prima di tratteggiare la sfida dei due, ascoltiamo insieme in che quadro si consuma questo acceso appuntamento elettorale. Che paese è il Venezuela? Grazie alle sue riserve di petrolio, il Venezuela è considerato l'Arabia Saudita dell'America Latina, con una produzione di oltre 2 milioni di barili di greggio al giorno. Una ricchezza che è anche una condanna. Legato a doppio filo all'oro nero e al suo andamento sui mercati, il paese ha vissuto gravi crisi economiche che hanno portato momenti di forte instabilità politica e insicurezza sociale. Il Venezuela detiene attualmente il secondo più alto tasso di criminalità del Sud America, con una media di 53 morti ammazzati ogni giorno. Nel 1998, Hugo Chavez, un ex ufficiale dell'esercito, vince le elezioni presidenziali. Da questo momento la storia del Venezuela è la storia del suo presidente. Chavez prende nettamente le distanze dagli Stati Uniti, considerati uno stato imperialista, e si propone come un nuovo Simón Bolívar, un liberatore dell'America Latina dalla tirannia straniera. Grazie alle entrate dovute all'aumento dei prezzi del petrolio, Chavez attua una serie di riforme in favore del ceto povero, che rappresenta oltre il 27% della popolazione. Da una parte nazionalizza le principali compagnie petrolifere e dall'altra propone l'abolizione del latifondo e la confisca dei terreni, che vede quindi contrapporsi i proprietari terrieri e i contadini. Tra il 2002 e il 2004, una serie di violenti scioperi indetti dai sindacati fa traballare la Repubblica Socialista, ma Chavez riesce a domare il dissenso nonostante la spaccatura sempre più netta della società venezuelana. In politica estera il presidente si dimostra altrettanto determinato. Rifornisce i paesi limitrofi di petrolio a prezzi ipercompetitivi. Viene accusato di offrire asilo ai terroristi delle FARC ricercati dal governo colombiano. Intrattiene scambi amichevoli con alcuni tra gli ultimi regimi dittatoriali al mondo, tra cui Cuba e Bielorussia, e rinforza i rapporti con la Russia e l'Iran. Nel 2007 il governo decreta l'oscuramento dell'emittente televisiva RCTV, rea di aver criticato il presidente. Migliaia di persone si radunano nuovamente in piazza per protestare contro il governo. Il dissenso nei confronti del chavismo e della sua politica economica, fondata esclusivamente sul petrolio, si compatta attorno al partito d'opposizione Primero Justicia. Nel 2011 Chavez inizia una terapia per combattere un cancro che lo costringe a lunghi periodi in cliniche lontane dal paese, nella Cuba di Raúl Castro, con cui, e il presidente, ha stabilito un patto di reciproco scambio, petrolio, in cambio di cure mediche. Con un'economia tra le meno competitive al mondo e un'inflazione che supera il 27%, il Venezuela è oggi un paese scosso da forti tensioni sociali e politiche, in cui il petrolio e povertà rappresentano due facce inconsuete della stessa medaglia. E il nuovo presidente, quello che uscirà, scaturirà dalle decisioni del voto di domani, dovrà cambiare faccia a questo paese. Le ultimissime da Caracas e soprattutto che aria tira nella capitale venezuelana ce le racconta Fabio Bozzato, giornalista freelance che collabora fra l'altro con Pubblico e Corriere della Sera. Fabio, buonasera. Buonasera a voi. Anzi, dovrei dire buongiorno perché da te è tarda mattinata, primo pomeriggio. Certo, è quasi luna. Ecco. Fabio, che aria tira a Caracas in queste ore? Siamo alla vigilia di un voto importantissimo per il paese. Guarda, da ieri c'è silenzio elettorale in tutto il Venezuela. Questo significa che sono proibite ovviamente tutte le forme di propaganda che sono state realizzate in questi mesi. È proibito la vendita di alcol e di girare armati. Questo di girare armati è importante se si pensa che è un paese dove girano almeno 10 milioni di armi e quindi è una precauzione ben presa. La gente sta facendo code nei supermercati, nei negozi, prende acqua, viveri, candele, perché in queste situazioni non si sa mai, perché i toni sono stati molto violenti nella campagna elettorale e ognuno dei due contendenti, che si dice sicuro di vincere, ha evocato spettri di votazioni poco chiare, comunque che l'altro non possa riconoscere il voto e che ci possano essere incidenti, e quindi c'è un po' di tensione, questo sì. Ecco, fra l'altro Fabio, ricordavi appunto la questione dei toni accesi. In una recente intervista al Financial Times Chavez ha detto in buona sostanza: voi votate pure per chi vi pare, però se io perdo si rischia la guerra civile. E questo da un lato, come dire, ha scatenato le ire dell'opposizione, dall'altro anche preoccupazione, perché anche se poi il capo di stato maggiore dell'esercito Barrientos si è affrettato a dire l'esercito è un'istituzione neutrale, professionale, quindi non preoccupatevi, però da più parti si dice attenzione perché insomma in un generale malcontento l'esercito potrebbe giocare un ruolo. Quanto alle accuse di frode, su Fox News Diego Arria, che è un ex diplomatico legato all'opposizione, pochi giorni fa diceva che il nuovo voto elettronico, perché si vota appunto in maniera elettronica, e adesso Fabio magari ci spiega meglio che cosa vuol dire, dice il nuovo voto elettronico permetterebbe l'identificazione degli elettori, e allora a questo punto l'opposizione si dice timorosa di possibili ritorsioni. Ma è notizia di poche ore fa, il Carter Center, l'organizzazione non governativa americana che fra le altre cose fa osservazione elettorale, dice il nuovo sistema elettronico è sicuro. Fabio, questo nuovo voto elettronico quanto incide nella, come dire, nella dimensione elettorale, nell'elettore venezuelano che si reca alle urne? Guarda, questo del Carter Center è vero, è rimbalzato anche qui, loro lo considerano uno dei sistemi elettorali migliori, loro del Carter Center, molto sicuro. Si vota, c'è uno schermo e si tocca lo schermo e si vota, e viene rilasciato un bigliettino in cui poi basta solo, se si è dato il voto che si ritiene corretto, basta dare la conferma. E poi alla fine, quando tutti avranno finito di votare, almeno dopo le 6 del pomeriggio, si chiudono i seggi e vengono stampati tutte i voti come una specie di lunghissimo scontrino consegnato ai membri del seggio e inviato tutto in forma telematica al Consiglio Nazionale Elettorale. Su questo si dice c'è sempre un'ombra, però effettivamente dall'altra parte ci sono anche molte prove che possa essere anche un ottimo sistema e contro le frodi. Devi tenere presente che ci sono almeno 200.000 osservatori dei singoli dei partiti, diciamo dei due candidati, in tutto il paese e in tutti i livelli, dai seggi al centro elettorale nazionale. Più che sulle frodi, credo si giocherà molto la partita magari sul riconteggio di voti, se la percentuale di vittoria dell'uno o dell'altro sarà minima come sembra, per cui magari, perché loro fanno comunque un riconteggio del sì, 47% di tutti i voti, sì, però si potrebbero allungare. E ancora in diretta da Caracas con Fabio Bozzato, che sta seguendo le elezioni venezuelane presidenziali. Davide contro Golia, si è detto da più parti, Capriles contro Chavez. Capriles, fra l'altro, tu l'hai incontrato di recente, Fabio. Su alcuni temi dice che seguirà le orme di Chavez, nel senso che ad esempio su quello che è lo stato sociale lui insomma non può più di tanto cambiare rotta. Qual è la vera differenza? Cioè cosa potrebbe cambiare veramente nel Venezuela con lui alla guida? Guarda, Capriles è una persona è molto giovane, ha 40 anni, però è molto determinato, molto ambizioso. E lui, la sua idea è di avere un paese molto più inserito nel contesto della globalizzazione, nel contesto mondiale, e quindi di avere un paese con molto più dinamico di quello che è ora, iniezioni di impresa privata, maggiore libertà di espressione. Lui vorrebbe anche, ovviamente con lui tutta la retorica socialista verrebbe meno. Di lui i suoi avversari dicono che lui nasconda in realtà delle politiche neoliberali e quindi di ritornare al passato. Lui invece dice che vuole mantenere una buona parte delle politiche sociali che sono state finanziate con le risorse petrolifere da Chavez, che in realtà ha veramente spostato una quantità gigantesca di risorse su tutto il fronte educativo, universitario, di assistenza sanitaria, sì, capillare soprattutto nei barrios, nei quartieri più popolari. popolare. Ecco, in questa campagna elettorale, ricordai appunto, molto accesa e con anche episodi di violenza, Chavez veramente ha mostrato i muscoli, nel senso che era veramente Golia. Ascoltate questo estratto della TV di Stato. Buenos días, 11:03. De este día domingo, vamos rápido al galope rumbo. Bueno, aquí estamos en el salón Néstor Kirchner. Ponme ahí. Perché il presidente Chavez ha un suo programma settimanale che si chiama Alo Presidente, e che, come dire, è parte di una corposa macchina da guerra mediatica di propaganda, con anche, come dire, apparati più piccoli, più radicati nel territorio, come un collettivo, una cooperativa che si chiama Esercito Comunicacional de Liberación. Noi abbiamo sentito Jeanette Charles, che è una delle attiviste. Ascoltiamo. Yeah, well, we have one, we've designed one campaign for youth. Jeanette da Caracas ci dice che hanno disegnato un'intera campagna di comunicazione con video, con graffiti, chiamata Chavez Otro Veta, cioè Chavez un'altra volta, in supporto appunto del presidente. Le foto si possono vedere anche sul nostro blog, noi posteremo su Facebook appunto l'indirizzo. Come cooperativa, dice Jeanette, cerchiamo di attirare più giovani, cercando di coinvolgerli in questo tipo di attività artistiche. Allo stesso tempo cerchiamo di sensibilizzarli politicamente e fare formazione politica in questo senso. Lavoriamo più che altro con i teenager, tra i 14 e i 16 anni, che sono più attratti da queste attività e chiaramente anche i più sensibili al nostro tipo di comunicazione politica. Also formation, so like building people's political consciousness about stuff, but particularly towards young people, so anywhere between like 12 years old to like, insomma, 25. Questo per dare un'idea di quanto potente è stata la macchina appunto elettorale di Chavez. Un'ultima domanda per te, Fabio: quanta fatica ha fatto Capriles per guadagnare visibilità sui mezzi di comunicazione? Sintetico su questo, per favore. Guarda, ha fatto difficoltà a imporsi nel dibattito nazionale, anche perché non ha il carisma che ha quell'altro, veramente un Davide contro Golia. Tieni presente però che ci sono delle TV di Stato e ci sono delle TV private molto importanti, molto seguite nel paese, che sono tutte antichaviste, queste TV private. Ci sono i due quotidiani, il Nazionale e l'Universal, sono antichavisti. C'è una parte di imprenditoria che lo ha appoggiato e lo ha aiutato nella campagna, e poi lui ha fatto una campagna incredibile porta a porta, ha visitato 300 paesi in tutta la nazione, anche dove non vedevano un candidato presidenziale dagli anni 50, e ha fatto 3 tour in tutti gli stati del paese, quindi ha puntato molto su questo, sugli imporsi, diciamo, con la propria felicità, col proprio stare nelle piazze, in giro, in tutto il paese. Sì, proprio un lavoro a consumare la suola delle scarpe. Grazie Fabio Bozzato per il tuo contributo da Caracas, buona serata, buon lavoro. Fra l'altro so che ti sveglierai alle 3 del mattino con una marcetta militare, perché così funziona per, esatto, le elezioni a Caracas. Alle 3 gireranno le camionette in tutto il paese per svegliarci e dire che i venezuelani dovranno andare a votare. E allora, buona serata e buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Sono 9:40, gentili ascoltatori, ancora in diretta, nessun luogo lontano, qui da Milano, Viale Monterosa, ma con gli occhi sul mondo e in particolare dall'altra parte dell'oceano, in Venezuela. Allarghiamo un po' il discorso su quello che potrebbe essere il futuro del Venezuela. Domani 19 milioni di persone alle urne, chiamate a decidere tra Capriles e Chavez. Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, esperto di America Latina. Roberto, buonasera. Buonasera a voi. Roberto, la domanda principe che in molti si fanno è questa: cosa cambierà se Capriles vincerà? Soprattutto, cosa cambierà nella famosa politica dei petrodollari, su cui Chavez ha fondato i suoi 13-14 anni di potere? Quanto è sostenibile un'economia di un intero paese che si basa esclusivamente sul petrolio? Ma dunque, è sostenibile perché molti paesi petroliferi dimostrano che è sostenibile. Naturalmente va detto che la peggiore sconfitta di Chavez è quella di non aver saputo creare un sistema economico, per esempio, di piccole e medie imprese, che potesse, non dico sostituire il petrolio, questo no, ma quantomeno affiancare e creare i primi vagiti di un sistema poggiato su qualche cosa diverso dai prezzi internazionali del petrolio, che fluttuano e che evidentemente non possono garantire uno sviluppo equilibrato di un paese. Ecco, questa certo. È stata la principale scommessa persa di Chavez. Però bisogna anche, io ho sentito ciò che è stato detto prima e sono poco d'accordo purtroppo. Capriles è un candidato fiacco perché l'unica cosa che è stato capace di dire è che comunque vorrà raddoppiare la produzione petrolifera di petrolio. Sì. Quindi andiamo in una direzione che è contraria a quella di cui il paese avrebbe bisogno. Sì. Il paese oggi produce, Venezuela oggi produce 2,3 milioni di barili di petrolio al giorno e l'obiettivo di Capriles, il candidato che si oppone a Chavez, è quello di arrivare a 6 milioni, quindi più che raddoppiare. Questo sì. Non è un buon programma economico, ecco, purtroppo. Sì. Tra l'altro, va riconosciuto a Chavez, a fronte di tante critiche legittime che gli sono state mosse e che gli debbono essere mosse, perché uno che vuole ancora rimanere al potere dopo 14 anni se le attira e quindi è giusto che, sì. Che venga criticato da chi auspica un'alternanza. Però va detto che un rapporto dell'ONU, per fornire un'informazione equilibrata, ha stabilito, rapporto ONU Habitat, che è facilmente reperibile in rete, ha stabilito che la disuguaglianza è diminuita e la povertà è diminuita. Sì. Negli anni di Chavez, quindi quanto è stato detto spesso si ripete nei mezzi di comunicazione, io conosco bene questo paese, ecco. Sì, bisogna riconoscere che naturalmente la violenza invece è aumentata di più, questo sì. Sì, e ci sono innumerevoli problemi che dovranno essere affrontati, però appunto alcune questioni debbono essere raccontate come stanno, tanto che Capriles, il candidato che si oppone ora a Chavez, ha comunicato che i suoi rapporti non romperà i rapporti con Cuba, prima cosa. Sì. E questo tra l'altro ha comunicato che i programmi sociali, ciò che Chavez chiama missiones, verranno confermati. Ecco, fra l'altro questo, come dire, attira le critiche dei detrattori di Capriles, che fondamentalmente gli dicono si è cristallizzato in una campagna elettorale che segue le orme di Chavez, giusto, con una faccia un po' più giovane, se vogliamo. Fra l'altro, ecco, alcuni ascoltatori, uno ci fa giustamente una precisazione riguardo alla scheda che abbiamo redatto prima. Nel 2002 non vi furono solo scioperi ma anche un tentativo di golpe. Poi un altro ascoltatore scrive: sicuramente in Sud America il semplice fatto di essere anti-americano porta molti voti. Roberto, sinteticamente su questo, la retorica anti-americana quanto secondo te invece può essere logora per Chavez, che comunque continua, l'ha forse ammorbidita, però continua a essere insomma un grande anti-imperialista, anti-americanista? Ah, la retorica di Chavez ha avuto un ruolo importante, perché il Venezuela, non dimentichiamolo, è un paese di 24-25 milioni di abitanti, ma è un paese in cui la povertà è ancora un elemento devastante, e la retorica anti-americana in tutti i paesi latinoamericani, dal Brasile all'Argentina, al Venezuela, all'Ecuador, al Paraguay, ha sempre avuto terreno fertile, questo è vero, e purtroppo questo è stato rafforzato negli ultimi 10 anni, dopo che il Fondo Monetario aveva suggerito all'Argentina delle ricette che hanno portato al default. Lì si è rafforzata una retorica anti-americana, tanto che hanno vinto in quasi tutti questi paesi, Colombia esclusa, hanno sempre vinto negli ultimi 10 anni presidenti di sinistra, sì, tra virgolette. Sì. Roberto, prima del traffico che incombe, ti chiedo una parola sola: chi vince, Capriles o Chavez? Non si può dire, perché i giornalisti non sono sondaggisti. L'unica cosa che si può dire è che fino a 10-15 giorni fa gli istituti di sondaggio davano Chavez con 10 punti di vantaggio, e negli ultimi nelle ultime 72 ore, però rilevazioni di vario genere hanno invece prefigurato un sostanziale pareggio, però appunto i giornalisti, noi non siamo sondaggisti, quindi questo è veramente impossibile da dire. Certamente sembra che la forbice si sia ridotta e che il vantaggio sia meno evidente, che quindi sia anche possibile un pareggio, quindi tutte le soluzioni sono aperte. E a poche ore dal voto che potrebbe cambiare, segnare il destino del Venezuela, cambiare radicalmente anche la sua politica, di fronte Davide contro Golia, Capriles contro Chavez, Capriles che apre a un certo liberismo ma allo stesso tempo ripercorre le orme di Chavez, Chavez che cerca una riconferma dopo i suoi 13 anni al potere, alcuni problemi di salute, alcune critiche mosse anche da organizzazioni internazionali come Human Rights Watch su libertà di stampa, su alcuni temi. Abbiamo sentito le voci da Caracas, l'analisi di Roberto Darin. Adesso invece vi porto in un'altra città, che è Mérida, con Ignazio Pollini, che è coordinatore dei progetti dell'ONG CISV, appunto in Venezuela. Ignazio, buongiorno. Buongiorno, come stai? Allora, tutto bene, grazie Ignazio. Fra l'altro dico buongiorno, ma dico buonasera, ma in realtà appunto buongiorno per voi. A poche ore dall'appuntamento elettorale, voi siete a Mérida, il CISV è un'organizzazione non governativa che realizza progetti di cooperazione internazionale in Africa e appunto in America Latina. Voi lì lavorate sui diritti umani, fra le altre cose, e poi ci parlerai di un progetto a cui tieni particolarmente, ma prima di questo intanto volevo sapere sinteticamente com'è l'atmosfera lì a Mérida alla vigilia del voto. Non siamo a Caracas, non siamo nella capitale, ma Mérida è una grossa città, città universitaria, che aria tira? Sì, qui a Mérida fino all'altro ieri ci sono state le consuete marce, contromarce in appoggio contro il governo, in preparazione alle elezioni, però da ieri praticamente tutto è assolutamente tranquillo, le scuole chiuse, l'università chiusa, c'è molta tranquillità in giro, quindi stiamo tranquilli aspettando il giorno, perché due giorni prima delle elezioni non si può più fare nessun tipo di propaganda, quindi certo, la tranquillità è totale. Ignazio, tu vivi in Venezuela da 20 anni, quindi conosci molto bene il paese. Il bilancio di questi 14 anni di potere di Chavez? Sì, ci sono molte cose positive e molte cose negative dal mio punto di vista personale. Le cose positive sono soprattutto quelle di cui hanno già parlato i miei colleghi prima nell'intervista che ho sentito prima, su tutti i progressi sociali nell'ambito della sanità, soprattutto dell'educazione, nell'ambito dello sport, che sono stati grossissimi progressi che ha dato il Presidente da quando è arrivato al potere. Prima di Chavez, io ero già qui dagli anni 80, c'erano dei grossissimi problemi in queste aree, dell'area sociale soprattutto. E poi l'altro grosso merito, io credo, è tutta la parte della nuova geopolitica che Chavez ha spinto rispetto agli altri paesi latinoamericani, quindi non pensare più in un mondo unipolare ma in un mondo pluripolare, appoggiando le politiche di altri paesi, da Cuba al Brasile, all'Argentina, al Paraguay, cose che sono già state nominate prima. Sì. Questi credo che sono i maggiori risultati, diciamo, positivi. Sì, fra l'altro dobbiamo ricordare alcuni mesi fa l'ingresso nel Mercosur, che è il mercato comune del Sud America, che in qualche modo ha superato... E anche l'ALBA che ha creato Chavez spingendosi e appoggiandosi su altri presidenti in contrapposizione all'ALCA, certo, che è libero accordo di commercio tra i paesi degli Stati Uniti e Messico soprattutto. L'ALBA invece è l'accordo bolivariano in cui i paesi, diciamo, tra virgolette in via di sviluppo si mettono d'accordo tecnicamente e economicamente per commercializzare tra di loro senza avere un socio come gli Stati Uniti in cui i rapporti commerciali sono molto difficili. Ecco, fra l'altro, come dire, Venezuela da sempre fa venire il mal di pancia all'amministrazione statunitense, proprio perché da un lato corteggia paesi non allineati, cosiddetti paesi non allineati, dall'Iran alla Bielorussia alla Siria, dall'altro appunto stringe accordi economici in maniera indipendente e quindi si muove anche con una certa autonomia. Abbiamo pochissimi minuti, volevo sinteticamente, prima che tu ci accenni il progetto a cui appunto volevi fare riferimento, c'è una forte coscienza politica, i giovani sono molto attivi, si parla di politica, si legge, si vendono anche libri. Da cosa nasce, come è stata creata questa forte coscienza politica? Beh, Chavez con il suo discorso molto populista, molto vicino alle persone, nel linguaggio, proprio nel modo di manifestare i suoi discorsi, i suoi verbi, i modi i simbolismi che usa molto, molto popolari, ha fatto sì che la gioventù si sia avvicinata molto, non solo la gioventù, a tutte le classi. Io ricordo gli anni 80-90 in Venezuela la gente non gli fregava niente delle elezioni, quando c'era molto, molto, moltissima apatia. Adesso c'è un fervore che nasce e lo vedi a tutti i livelli, sia quelli che sono filo governativi, filo chavisti, e anche quelli che sono contro il governo. Cioè, sì. Ha creato proprio, ha spinto tantissimo l'idea creazione di una coscienza politica. Siamo in chiusura, Ignazio, sì. Fra le altre cose il problema dell'analfabetismo soprattutto nelle zone rurali è fortissimo. Voi da questo punto di vista usate i muli, gli asini, giusto? Sì, è uno dei progetti su cui CISV, che è presente qui già dall'anno 2001, abbiamo, siccome una delle nostre priorità è lo sviluppo agricolo, ci siamo sempre preoccupati del problema delle popolazioni agricole, soprattutto in Africa, ma anche qui piano piano stiamo cercando di muoverci in quest'area. E in particolare noi, stando sulle Ande, stiamo in un paesino a 3.000 metri di altezza e da lì in su ci sono alcune comunità rurali fino a 3.600, dove non arriva mai nessuno, praticamente sono delle scolettine rurali perse in cima alla montagna dove non c'è nessun tipo di appoggio né da parte del governo né da parte di istituzioni private e pubbliche. E lì allora noi, arrivate voi con... in quella zona, stiamo proponendo un programma che si chiama il programma del progetto Bibliomula, che è un progetto di promozione alla lettura, perché sappiamo che se tu impari a leggere da piccolo, ti stimoli a leggere, crei una coscienza. Non solo politica, esatto. Ignazio, 30 secondi, devo salutarti, ti ringrazio, ma posteremo su Facebook, anzi l'abbiamo già fatto, il video del vostro progetto. Io ti ringrazio, buona serata e buon lavoro. E ho 10 secondi per ringraziare anche Nadia Zammitti, Laura Faggini in redazione a confezionare con me questa puntata, Valeria Bernardi che le ha dato musica e ritmo, voi gentili ascoltatori per essere rimasti con me anche quest'oggi. L'appuntamento è a sabato prossimo ore 19:15. Una buona serata, un saluto da Gianpaolo Musumeci.